Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. È boom per i car boot market, i mercatini dell'usato nel bagagliaio della propria auto. Comodo ed ecologico, il car boot market conquista le abitudini del weekend in molte città, all'insegna del riciclo e del riuso. Coca-Cola torna alle origini con la nuova campagna pubblicitaria, lancia la strategia One Brand per tutti i prodotti. Una bella storia di marketing da raccontare. È futuro la nuova parola d'ordine nel mondo della moda, le tecnologie sono sempre più indossabili, i tessuti diventano smart, così come persino la nostra pelle con i tatuaggi elettronici. Gli oggetti sono fatti per essere usati. Le persone sono fatte per essere amate. Il mondo va storto perché si usano le persone e si amano gli oggetti. Il fenomeno è nato in Inghilterra, ora sta conquistando anche l'Italia. Parliamo dei car boot market, i mercatini dell'usato in cui gli oggetti di seconda mano vengono esposti nel bagagliaio della propria auto. Portelloni aperti dunque, come le ante di un armadio o un baule delle meraviglie, il car boot market trasferisce la classica garage sale dai cortili, dai giardini, ai bagagliai appunto. Fra i più frequentati a Roma, quelli promossi dall'Associazione Culturale Opificio delle Arti, il presidente Eugenio Casadio Tarabusi. Nasce da un nostro viaggio di piacere fatto in Inghilterra, dove abbiamo partecipato a un paio di questi mercatini che lì sono molto diffusi, e abbiamo detto perché non ripeterlo e riproporlo in Italia e a Roma dove abitiamo. Quindi è nata quasi come una scommessa 2 anni e qualche mese fa, e da lì è stato un crescendo, un successo sempre più grande. Adesso è bella l'atmosfera, si viene sì per vendere, per scambiare, ma anche per passare una giornata diversa. Quindi che tipo di riscontro state avendo? Altissimo, oggi, l'abbiamo fatto anche oggi, e gli espositori erano più di 80. Lo facciamo in uno spazio molto bello e accogliente che è la città dell'altra economia all'interno dell'ex mattatoio di Roma a Testaccio, che è un'area attrezzata dove adesso c'è una pista di pattinaggio per i bambini, in più c'è un bar, un ristorante, quindi un'area servita e già molto frequentata dalle famiglie. Quindi questa è una cosa in più, c'è un mercato biologico, i cibi biologici, e questo dà un quid in più che ha fatto sì che il mercato fosse molto frequentato e divertente, perché poi la gente viene e si diverte. Sta diventando, in base alla vostra organizzazione, un appuntamento fisso, voi continuate a farlo? Assolutamente sì, dai 2 appuntamenti mensili che sono stati, diciamo, fino ad oggi, da marzo partiremo ripetendolo ogni domenica. Che cosa si vede in questi bagagliai? Che cosa porta di più la gente? Porta i suoi ricordi, il suo passato in qualche modo. Sappiamo che è difficile staccarsi, ma poi vedi, è bello anche l'emozione che si trasferisce in questo tipo di mercati, perché sono veramente i privati che fanno questo sforzo in più. È un desiderio di liberare casa e allo stesso tempo di non farlo. Ma poi vedi che quando l'oggetto viene passato, soprattutto se viene passato significa venduto, scambiato a qualcuno che gli può riversare lo stesso amore che gli hai riversato tu, questo trasferimento di energia è positivo. Sono storie anche, no, che passano di mano in mano insieme agli oggetti. Ecco, sì. Addirittura voi, leggevo, state pensando allo scooter boot market dentro i bauletti, in pratica? Già lo facciamo. Fantastico. No, non solo, si può venire anche con la bicicletta. Oggi avevamo più ragazzi che sono venuti in bicicletta, si sono organizzati per portare le loro poche cose con la bici. Feels good. Con la nuova campagna Taste the Feeling, sentite lo spot in sottofondo, Coca-Cola lancia la strategia One Brand, un brand unico per tutti i prodotti. Per la prima volta in tutti gli strumenti di comunicazione pubblicitaria i marchi delle varianti Light e Zero, nel resto del mondo c'è anche Life che non è presente però sul mercato italiano, di fatto scompariranno sotto l'unico brand Coca-Cola. Campagna affidata a 4 tra le maggiori agenzie pubblicitarie del mondo, 10 spot TV, nuova colonna sonora originale, immagini scattate da grandi fotografi di moda. Riservatezza assoluta sulle cifre dell'investimento, anche noi abbiamo provato a chiederle ma senza successo. Marta Carvelli è la marketing manager Sparkling di Coca-Cola. Coca-Cola come marchio ha sempre fatto parte della vita dei consumatori da più di 10 anni. Tutti noi ci ricordiamo uno spot piuttosto che uno slogan che ha accompagnato, diciamo così, i nostri giorni. Oggi noi lanciamo una nuova campagna che costituisce davvero una svolta nella nostra strategia di marketing. Questa strategia chiamata One Brand, che sostanzialmente ha lo scopo di raggruppare tutti i prodotti del marchio Coca-Cola, nel caso italiano Coca-Cola Rossa, Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero, sotto un unico ombrello, sotto un'unica campagna di comunicazione. 10 spot TV, una nuova colonna sonora composta ad hoc, collaborazioni importanti anche per la campagna visiva. Di che tipo di investimento stiamo parlando? Stiamo parlando di un investimento globale che viene poi declinato nei vari paesi a seconda della pianificazione. In Italia noi avremo uno spot chiamato Anthem in TV. Lo spot è stato realizzato da Mercado McCann, è caratterizzato da una colonna sonora che è stata creata ad hoc per noi, Taste the Feeling, realizzata appunto in cooperazione tra Music Dealer e Avicii. E la campagna non finisce qui, perché per l'Italia abbiamo anche una notevole e impattante campagna di affissione che coinvolgerà 7 città a livello nazionale, più alcune personalizzazioni importanti sulla città di Milano. Senza dimenticare il digital, poi, che è chiaramente un mezzo fondamentale per poter dialogare soprattutto con i consumatori più giovani, per i quali stiamo realizzando delle modalità appunto interattive di comunicazione sui principali social e sul mondo digitale in generale. In generale diciamo che Coca-Cola ha come azienda aumentato gli investimenti nel 2015, gli investimenti media, di circa il 30%, e pensiamo appunto di fare lo stesso anche nel 2016 con questa campagna, che sarà sostanzialmente un po' il motore della crescita per noi. Per la prima volta, lo abbiamo detto, i marchi scompariranno sotto il brand originario negli strumenti di comunicazione. Ci sarà una svolta simile in futuro anche per quanto riguarda le bottiglie? Questo è presto per dirlo, al momento appunto lanciamo la strategia One Brand a livello soprattutto di comunicazione e quindi ci focalizziamo su questa parte del marketing mix per questo momento. Ricordate gli stivaletti di pelle bianchi, piatti, a metà polpaccio di tante dive anni 60-70. Di colpo il futuro, l'immaginario legato al futuro, entrava nella moda. Oggi il futuro nel settore passa dai cosiddetti wearables e poi dai tessuti smart e dai tatuaggi elettronici. Pensate, l'ultima frontiera della tecnologia indossabile, perché il touchscreen del futuro sarà la nostra pelle. Ne parliamo tra pochissimo, subito dopo la pausa. Restate con noi. Proprio come voi, di chiacchiere non ne possiamo più, ed è per questo che ci occupiamo solo dei fatti. Un'ora di informazione dall'Italia, dall'Europa, dal mondo, con servizi, interviste e analisi. Vi aspetto con tutta la redazione di Radio 24. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, da lunedì a venerdì alle 13 con Simone Spezia. Essere e avere. Marti, ti prego, togliti la camicia. Mettiti la giacca e le scarpe. Autolacci, fantastico. sta a fare? Non mi sta. Regolazione taglia. A posto. Tira fuori le tasche dei pantaloni. Tutti i ragazzi del futuro portano i pantaloni al rovescio. Focus sui trend. È dedicato a moda e futuro il focus sui trend di questa settimana, dalla riscoperta degli stilisti che hanno saputo anticipare i tempi all'innovazione nei tessuti, nelle componenti, fino ai capi e agli oggetti smart griffati, con il boom delle cosiddette tecnologie indossabili, un tema molto sentito in questo momento tra gli addetti ai lavori, ma non solo. Ce lo facciamo raccontare da Valentina Ventrelli di Future Concept Lab. Ciao Valentina. Buonasera a tutti. Allora, da dove partiamo? Partirei da André Courrèges, che sicuramente è stato una figura emblematica rispetto a questo boom dell'immaginario tra moda e futuro. André Courrèges, tra l'altro, scomparso proprio all'inizio di quest'anno, che era un anno, è un anno fondamentale per la sua maison, perché compie 50 anni e che ha intenzione di mettere in campo tutta una serie di eventi importanti per il rilancio della maison. André Courrèges, prima di tutto, non era uno stilista, era un ingegnere civile che a un certo punto, all'età di 26 anni, comincia ad esplorare altri tipi di strutture, quelle sartoriali, comincia una collaborazione con un maestro come Balenciaga, che in quel momento, appunto parliamo degli anni 60, metà degli anni 60, rappresentava un faro nella moda parigina, e per 10 anni sperimenta con lui delle forme straordinarie, fino a che apre la sua maison e, oltre a raccogliere l'eredità dell'architettura sartoriale, lancia una nuova femminilità che diventa davvero dirompente, perché tutta la sua esperienza sulle strutture, sull'ingegneria, entra nel mondo della moda anche introducendo tessuti materiali, perché è il primo ad usare la plastica per la moda, e soprattutto introducendo tutta una serie di capi, dalla minigonna che in realtà ha inventato lui, agli stivaletti piatti, morbidissimi, amatissimi da Catherine Deneuve e da Romy Schneider e da moltissime donne che rappresentavano anche un nuovo tipo di femminilità, entra in questo mondo del futuro attraverso delle icone fortissime. Ecco, è proprio l'immaginario comune, diffuso di quegli anni, il giubbottino di vinile, gli stivaletti bianchi che hai citato, in certo. Catherine Deneuve, insomma, ce la rappresentiamo tutti così, no? Ricordandola. Assolutamente, perché segnava anche un nuovo modo di essere donne. Lui amava dire, sulle strade del futuro si va con i tacchi bassi, cioè anche semplicemente proporre delle calzature senza tacchi, assolutamente minimali, assolutamente futuribili, cioè lui ha davvero aperto la strada all'immaginario di un futuro possibile nella moda. Tra i materiali che mi hai mandato, Valentina, leggevo una collezione degli anni 60, 5 taglie con orli regolabili, beh, avantissimo. Assolutamente, infatti questo era proprio, derivava dalla sua formazione, che appunto non era la moda, erano oggetti di design. In questa chiacchierata appunto su moda e futuro non possiamo non citare il boom dei wearables, quindi delle tecnologie cosiddette indossabili. È un tema molto forte in questo momento. È un tema molto forte perché è esploso veramente, nel senso che oggi davvero siamo circondati da moltissimi oggetti che ci supportano anche attraverso proprio dei servizi. Ormai indossiamo moltissimi oggetti, cosiddetti gadget, che però gadget non sono, che, come dire, accompagnano le nostre funzioni vitali, dallo sport, dalle performance. Abbiamo citato più volte Joe Bone, che senz'altro ha aperto una strada e un filone molto importante, però basta guardare anche tutti, dall'Apple Watch a tutti gli orologi che ormai dialogano non solo con il nostro corpo, ma anche con tutto il resto dei nostri device. E questo è sicuramente un boom non solo nell'immaginario, ma anche proprio nel quotidiano, nel consumo. Tutto il tema degli occhiali è un altro tema molto caldo, nel senso che, al di là delle sperimentazioni ardite, ormai ci sono occhiali apparentemente normali. giornali. Mi viene da citare questo caso giapponese di Jeans. Jeans è uno dei maggiori marchi di ottica giapponesi, che al CES dello scorso anno, del 2015, ha presentato i Jeans MAME. Parlo di questi perché questi sono già un prodotto non solo venduto in moltissimi mercati, ma che sta avendo un successo straordinario. Sono degli smart glasses apparentemente normali, cioè senza telecamere a vista, come i famosi Google Glass, che hanno senz'altro aperto la strada a questo tipo di sperimentazione. Loro propongono un occhiale assolutamente minimale nelle forme, molto giapponese, però con una tecnologia sofisticatissima di biosensing che rileva le piccole variazioni dei movimenti oculari e con l'aiuto di un'app in qualche modo non solo monitora tutto il tuo benessere, ma soprattutto ti manda dei segnali, piccoli segnali sonori o luminosi nel momento in cui tu sei stanco e hai bisogno di una pausa, piuttosto che hai esigenze di fermarti a mangiare qualcosa. Allora, questa cosa qui ovviamente ha un'applicazione straordinaria, pensiamo solo alla sicurezza stradale, piuttosto che a tutto un tema di benessere quotidiano che ormai questi oggetti sono in grado di sostenere. Molta parte della ricerca, Valentina, si sta concentrando sui materiali e sulle componenti. Il tema del materiale è probabilmente oltre tutto la frontiera più avanzata di questa ricerca di wearable. Come si diceva nel caso degli occhiali, quando la tecnologia scompare e però diventa sostanziale, è esattamente quello che sta succedendo nei materiali indossabili veri e propri, cioè quelli integrati con l'abbigliamento. A cavallo del millennio, in qualche modo, c'è stato questo boom di ricerca sul wearable e probabilmente CP Company, attraverso la Urban Protection Jacket, è stato uno dei capi più emblematici di questo. C'era la prima volta che un giaccone urbano acquisiva tutta una serie di materiali che arrivavano da altri mondi, iperprotettivi, addirittura antiproiettile, materiali ignifughi. Lì si parlava ancora di una protezione più visibile, nel senso che la giacca era pensata proprio come una sorta di armatura urbana. Oggi la cosa straordinaria è che tutta questa sperimentazione materica sta scomparendo, ovvero si sta integrando con i tessuti più tradizionali. Allora, in questo il progetto Google Jacquard è sicuramente uno dei progetti più avanzati. È una tecnologia sofisticatissima che integra tutte le funzioni, cioè tutti i fili di conduzione che dialogano con i device sono integrati in fili di diversi materiali, dal cotone alla lana, assolutamente indistinguibili dal filo semplice, per cui questo permette la lavorazione del tessuto più tradizionale in assoluto, però portando con sé tutto il vantaggio di avere un filo intelligente, cioè un filo che permette al capo di essere interattivo e connesso con tutti i nostri device. Questa è la frontiera più straordinaria perché, come dire, libera la creatività a quel punto rispetto alla moda, però con all'interno tutto quello che la tecnologia oggi ci può fornire. Questo si percepisce veramente, insomma, il futuro della moda. C'è spazio per un'ultima segnalazione. Con cosa chiudiamo? Scomparire per scomparire, probabilmente oggi i wearable più interessanti sono anche quelli che si integrano direttamente sulla pelle. Ci sono tutta una serie di sperimentazioni molto interessanti sui tatuaggi, che hanno comunque la funzione di proteggere e di registrare le nostre funzioni vitali, ma che passano direttamente dalla pelle. Anche qui non scompaiono perché sono visibili, però portano con sé l'immaginario del tatuaggio, cioè del decoro sul corpo, che però ha anche come dire, tutte quelle funzioni di monitoraggio, di dialogo sulla salute, che oggi rappresentano un altro filone importante. Beh, la frontiera del touch, insomma, sarà la nostra pelle. Assolutamente, quale cosa più legata al corpo e alla sensorialità se non la nostra pelle. Grazie a Valentina Ventrelli, alla prossima. Grazie a tutti voi. Il consumautore. Dalle nuove parole chiave del marketing e della comunicazione ai fenomeni di mercato e di prodotto, passando per i numeri, le tendenze, i contributi del mondo accademico, questo il percorso della nostra esplorazione alla ricerca della nuova dimensione del consumo. A guidarci c'è come sempre il sociologo Francesco Morace. Buonasera Francesco. Buonasera Maria Luisa e radioascoltatori. Oggi da dove partiamo? Oggi partiamo da un libro straordinariamente interessante, si chiama Maschere quotidiane ed è stato scritto da un collega, da un sociologo, un docente di sociologia all'Università di Torino, Massimo Cerulo. Il libro si chiama Maschere quotidiane ed è tutto dedicato ai 18-25 anni italiani, agli universitari in particolare. L'analisi di Massimo Cerulo parte da quattro città, dalle università di quattro città che sono Torino, Perugia, Cosenza e Palermo, quindi tutto lo stivale è coinvolto in questa ricerca. Un focus, mi anticipavi, sulla loro situazione emotiva soprattutto. Sì, perché questa generazione è caratterizzata soprattutto da una dimensione psicologica, molto meno importante del passato è la condizione sociale, ad esempio, anche quella economica, mentre invece questi ragazzi tutti dimostrano una grande ipersensibilità e infatti i due sentimenti per loro più importanti sono da un lato la gioia, felicità e dall'altro l'ansia e la rabbia. Che è curioso perché sembrano sentimenti contrapposti, eppure la loro condizione quotidiana è segnata proprio, diciamo, da questa ciclotimia, che è una parola utilizzata dagli specialisti per indicare una forte sensibilità alle emozioni. Di qui l'indicazione di un bisogno che va più verso la rasserenazione che verso l'adrenalina, no? Come si vuole invece pensando ai giovani. Sì, questa è un'indicazione importante anche per le aziende e per chi comunica, perché noi ancora oggi, noi adulti, siamo convinti che ai ragazzi interessi il grande ritmo, l'adrenalina, ecco, questo loro interessa ma ce l'hanno già. Quindi quello che ad esempio le campagne pubblicitarie dovrebbero trasferire è la serenità, è la profondità, cioè provare a prendere un po' per mano questi ragazzi, accompagnarli in un percorso che è appunto psicologico, dandogli quello che loro non hanno, perché ecco, quindi imitare ad esempio i loro linguaggi non funziona, essere giovanilisti è proprio fortemente avversato da questi ragazzi. Perché nell'era della sovrabbondanza di informazioni, di interazioni, di possibilità, spesso ci dimentichiamo che c'è un grande rischio anche di disorientamento, di confusione. Questo vale anche per i messaggi commerciali? Questo vale per i messaggi commerciali e viene confermato dalla ricerca, che non a caso poi prende il nome di maschere quotidiane, perché i ragazzi, proprio per questa loro insicurezza, perché sono ipersollecitati, si adeguano molto al contesto e quindi adottano delle maschere appunto quotidiane perché hanno paura di non riuscire a rispondere alle richieste degli adulti e quindi questo deve farci pensare molto. Grazie a Francesco Morace, grazie anche a Filippo Aureggi in regia. Essere Avere finisce qui, a domenica prossima. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.